Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio. Come ogni settimana vi raccontiamo non solo come la rete cambia la politica, ma anche come voi potete provare a cambiare la politica con la rete. Questa settimana parleremo con Giuliano Cazzola, deputato del PDL, che ha deciso di lasciare completamente i social network. Cercheremo di capire da lui perché lo ha fatto e poi un approfondimento serio però sulla satira politica. I nostri contatti, come sempre, votantonio@radio24.it, su Twitter è votaantonioR24, su Facebook la pagina risponde allo stesso nome, votaantonioR24. Trovate anche me su Twitter se volete, Simone Spezia. E naturalmente vi ricordo anche che ci potete riascoltare in podcast. Ecco che cosa abbiamo pescato questa settimana. Ubiquità. Un caso curioso quello di Franco Barbato, deputato dell'Italia dei Valori. Barbato comunica via Twitter "ora voto" come se fosse in aula alla Camera, ma il servizio di geolocalizzazione del sito di microblogging informa che il tweet arriva da San Felice a Cancello, provincia di Caserta. Lo ha segnalato Francesco Costa, giornalista del Post. Oppure... è stata un'idea di marketing politico eccellente, bisogna dirlo. Vediamo che cosa ne deriverà. Parliamo dello slogan scelto da Nicky Vendola per la candidatura alle primarie, oppure Vendola. Si presta facilmente all'hashtag, ossia ad essere usato su Twitter come chiave di ricerca o di scherzo. Si presta alla parodia, che è comunque un modo perché se ne parli, come quelle già create. La pasta scotta, oppure Vendola. Le mezze stagioni, oppure Vendola. Se ne parla, insomma. Situazionismo e libertà. A proposito di primarie, si vorrebbe candidare anche lo scrittore Fulvio Abbate. Probabilmente gioca e difficilmente avrà i numeri per farlo, ma eccolo qua. Grazie YouPorn per averci salvato ieri sera, 1° ottobre 2012, da Fazio e Saviano visti in televisione. Se il tuo pensiero corrisponde alle parole appena adesso espresse dal marchese Fulvio Abbate, beh, se le cose stanno così, situazionismo e libertà è la tua casa e la lista che dovrai votare alle imminenti primarie del centro-sinistra. Grazie YouPorn, grazie situazionismo e libertà, grazie marchese Fulvio Abbate. Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. E come sempre in questa seconda parte della trasmissione ci prendiamo un attimo di respiro e vediamo di analizzare la settimana politica. Il punto di Stefano Folli. Se lei fosse informato, ma io sono informato, saprebbe che la regione Lombardia è stregata. No, guardi, questo non regge, cioè ci sono delle persone che... Allora, ci sono degli ascensori. Ma non ascensori, no. In Lombardia ci sono degli ascensori, no, che ti chiedono dei favori. Ma non guardi, non... Perché no, le scale che raccomandano dei loro amici, no, guardi, questo non... bagni che ti ricattano. Ma guarda, no, perché no, se no, mentre lì che fai la pipì ci, no, sono dei Vespasiani, no, che ti dicono se non mi dai 30.000 euro dico la tua segretaria che ce l'hai piccolo. No, non regge. Allora, abbiamo deciso di iniziare così, insomma, ci perdonerà il presidente della regione Lombardia un po' di irriverenza, con Maurizio Crozza la settimana scorsa a Ballarò, che fa una splendida imitazione di Formigoni, a dire il vero. Stefano Folli, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. È sicuramente il tema politico della settimana, la vicenda della regione Lombardia. Si doveva dimettere Formigoni? Ma io penso che dovrebbe dimettersi, perché mi chiedo come si possa pensare che la regione Lombardia, che è la più importante sul piano economico del paese, possa restare nel tritacarne così ancora per svariati mesi. Io credo che occorra un po' prendere atto della realtà. La regione Lombardia a questo punto deve tornare al voto, io credo. In primavera? Ma è abbastanza presto, direi, sì. Io penso che ci sono momenti nella politica in cui bisogna avere il coraggio di voltare pagina. E io credo che Formigoni debba avere il senso di responsabilità di capire che così non si può andare avanti. Scrive su Twitter, tra l'altro uno scrittore, Sandrone Dazieri, ma quel che avanza gli elettori leghisti, si berrà anche questo? E questo secondo me è un tema interessante della vicenda, perché Maroni era l'uomo che doveva portare pulizia nel partito dopo tutti gli scandali. Esatto. Questo è il punto. Questo è il punto fondamentale. Maroni, a parte che è stato ministro dell'interno, ma insomma è diventato segretario della Lega con la scopa, no? Il suo simbolo è la scopa. Ora sta venendo fuori uno scandalo in Lombardia legato niente meno che all''Ndrangheta. Tra l'altro, voglio dire, nell'immaginario leghista è proprio, diciamo, la presa del peggio del sud sul nord, no? Allora come si può pensare che la Lega possa coprire tutto questo? Per un gioco di ricatti che c'è? Ma questo l'opinione pubblica non lo capirà mai. Io credo che se Maroni vuole mantenere la sua credibilità, che ha guadagnato nei primi mesi della sua stagione di segretario della Lega, debba prendere una decisione che non può essere quella di coprire tutto. Quando alla ripartizione per materie, le aree sono attemperati nella nostra legislazione e sono quelle: A, ambientali, 33 procedure, in cui 29 violazioni del diritto UE. Questo è l'onorevole Razzi di Popolo e Territorio. È un intervento che è rimasto mitico in rete, a parziale discolpa della scarsa capacità di parlare in italiano dell'onorevole Razzi, anche così possiamo dirla. Possiamo dire che uno di quelli eletti nella circoscrizione estero, vive da 30 anni in Svizzera. Ci scrive un ascoltatore una lettera proprio a proposito di questo e partendo dall'esempio di Razzi, e chiede a te Stefano, dice: dato che hai avuto modo di affrontare con encomiabile equilibrio la questione della politica e dell'antipolitica nel nostro paese, si chiede di fronte a spettacoli come questo se davvero un tale impegno a dibattere problemi fondamentali per tutti noi abbia una qualche utilità, e soprattutto che cosa possono fare i cittadini, gli elettori, per evitare che queste persone non solo non vengano elette, perché insomma dice giustamente basta non votarle, ma perché non vengano nemmeno candidate. C'è qualcosa che si può fare, forse la legge elettorale? Sì, la legge elettorale certamente, però occorre qualche cosa di più, occorre che ci sia una capacità del cittadino di essere molto partecipe della vita democratica e molto capace in ogni momento di esercitare un controllo. Spesso alcune cose, compresa una cattivissima, una pessima legge elettorale come quella che abbiamo avuto fino a oggi, deriva in qualche modo anche da una certa indifferenza dei cittadini rispetto alla cosa pubblica, una certa mancanza in senso generale di educazione civica, di passione civile, e anche per questo che avvengono certe situazioni limite come quelle che si sono verificate in questi anni in Italia. E adesso non sto facendo un caso personale su una delle Razzi che tra l'altro non conosco, però indubbiamente il decadimento della classe politica è anche in parte responsabilità di un paese che non partecipa a sufficienza e nei modi giusti alla vicenda pubblica. Ci potete scrivere a il.etradio24.it, ve lo ricordo ancora, lo ha fatto per esempio Giuseppe da Napoli, che ci chiede qualcosa, Stefano, proprio a proposito della legge elettorale, e ci dice: quello che è passato adesso, che è di fatto la proposta del PDL con Italia dei Valori e Partito Democratico che si sono tenuti fuori, mi sembra un po' un pasticcio. Insomma, ci sono dentro le preferenze, c'è questo premio di maggioranza al 12,5%. Insomma, che cosa ti sembra che stia venendo fuori? Io penso che ci sia un accordo più generale di quello che sembra. Credo che il Partito Democratico faccia parte di questo accordo, nonostante alcuni distinguo dovuti ad astuzia e a senso tattico, diciamo così. Però sono d'accordo con l'ascoltatore, a me non piace affatto quello che sta venendo fuori. Riproporre il tema delle preferenze in questo quadro, nei giorni stessi in cui abbiamo un ex assessore della Lombardia che viene arrestato per aver comperato migliaia di voti dall''Ndrangheta, almeno questa è l'accusa, ma mi sembra un'accusa piuttosto fondata, ecco, riproporre il tema delle preferenze mi sembra quantomeno inopportuno. Io credo che bisognava avere il coraggio, e nessuno l'ha avuto, di proporre un sistema elettorale di sistema, diciamo, destinato a reggere non per un mese o sei mesi o un anno, ma per alcuni decenni, e questo sistema doveva essere molto più coraggioso, doveva fondarsi su collegi ristretti, su un sistema che io credo, quello a doppio turno di tipo francese, sarebbe stato e sarebbe ancora oggi il migliore per l'Italia. Se seguite un'altra strada per proteggere il sistema dei partiti, e questo è un grande rischio nell'Italia di oggi, perché l'opinione pubblica è piuttosto esasperata. Stefano, adesso ti chiederei un quadro sui due principali partiti. Oddio, il PDL non so se è ancora uno dei due principali partiti all'interno del quadro politico italiano, però inizierei invece dal Partito Democratico. E da Matteo Renzi, ancora al centro della scena, anche grazie allo scontro con Marchionne, tra l'altro è stato molto divertente, credo inventato da un utente Twitter che si chiama Asino Morto, un hashtag che è girato, sul quale si sono fatte di nuovo battute sugli attacchi che vengono fatti al sindaco di Firenze, si chiamava Attacca Renzi. Sono uscite cose come The Good G ha scritto: Renzi fa le corna alle foto del G8, Renzi apre tutti i mascara da Sephora e li fa seccare, Renzi ha creato il calendario Maya, e infine Ste Sbaglio che scrive: Renzi scrive il cellulare di Bersani nei cessi dell'autogrill. Questo per dare l'idea, insomma, ancora una volta della tensione che c'è intorno al sindaco di Firenze, no? Sì, c'è tensione, però lui riesce, appunto, come dicevi tu, a stare al centro della scena. Questo non è poco nella società mediatica in cui siamo. La polemica con Marchionne in qualche modo lo ha in qualche modo caratterizzato a sinistra, no? Lo accusavano di essere al servizio dei poteri forti, invece la polemica con Marchionne cambia un po' il quadro. No, lui è al centro della scena, che poi riesca a vincere le primarie, questo l'abbiamo già detto, è un altro paio di maniche. Io penso che Bersani abbia ancora un certo margine di vantaggio, però Renzi si è candidato stabilmente a occupare il centro della scena politica anche dopo le primarie, e si è ritagliato lo spazio del rinnovatore del centro-sinistra e del rinnovatore potenziale del Partito Democratico. Io penso che occorrerà fare i conti con lui anche nei prossimi anni. Rinnovatore, esattamente quello che manca nel PDL, Stefano. PDL è in uno stato di coma, è in uno stato tremendo. Mi sembra che non ci siano idee su che cosa fare. Si discute da giorni su questo ipotetico passo indietro di Berlusconi, così come un mese fa si discuteva invece del suo passo avanti. Voleva fondare un nuovo partito, il nuovo Predellino, un partito tutto personale, come se fossimo ancora nel 94. È sintomatico che manca un'idea chiara, e quindi questa grande area moderata, che insomma ha sempre ottenuto la maggioranza dei consensi elettorali nel paese dal dopoguerra ad oggi, ecco, per la prima volta forse è senza una chiara rappresentanza. Però c'è tempo di qui alle elezioni, e io credo che occorrerà immaginare e trovare un federatore, un personaggio, una linea politica, qualche cosa che ricostruisca questo mondo moderato che oggi è allo sbando. Indubbiamente il punto di riferimento ideale di questo mondo oggi è Mario Monti, il che però non significa nulla, perché Mario Monti certamente non scenderà in campo per mettersi alla testa di un mondo di questo schieramento ipotetico. Quindi rimane un riferimento ideale, rimane l'esigenza di una politica che sappia tenere l'Italia vicina all'Europa. Come si arriverà non lo sappiamo ancora. Grazie anche per questa settimana. Grazie a te, Stefano Folli, buona giornata. Noi ci fermiamo, vi ricordo ancora il punto è radio24.it per scriverci, per fare le vostre domande a Stefano Folli. Ci ritroviamo tra poco. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Come sempre in questa terza parte di Vota Antonio apriamo un capitolo sui numeri. Riccardo Puglisi, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno ascoltatori. Abbiamo parlato nelle settimane scorse degli account Twitter dei sindaci e di alcune cose simpatiche che li riguardano. Andiamo dunque a vedere i numeri degli account Twitter di questi sindaci, almeno delle città principali. Naturalmente abbiamo omesso Matteo Renzi per il ruolo preminentemente politico nazionale che sta avendo in questo periodo, e quindi siamo andati a vedere i sindaci delle altre città. Macronumeri innanzitutto, Riccardo. Allora, abbiamo preso i sindaci delle sei principali città italiane, quindi Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova. I numeri sono i seguenti: c'è una diversità di follower, chiaramente c'è molta variazione, nel senso che per esempio quello che ha più follower è sicuramente De Magistris con 140.000 follower all'incirca, molto probabilmente dovuto anche all'attività politica precedente, e segue all'incirca con metà dei follower Pisapia, che ne ha circa 70.000, e invece Fassino ne avrebbe 30.000 e invece Alemanno ne avrebbe 15.000. Quindi il dato particolare oserei dire che è il dato relativamente basso di Alemanno, perché... Sì, il sindaco della principale città italiana c'ha solamente 15.000 follower. Naturalmente non è una questione di numero di followers, perché sennò finiremmo come Gasparri, che la settimana scorsa ha insultato un suo follower, solamente perché di followers ne aveva 48. È una questione naturalmente di attività, ed è quello che vogliamo andare a vedere, Riccardo. Quindi l'attività, si vede differenze di attività, si vede anche una cosa, un indicatore interessante è vedere quanti follower ciascuno ha per tweet, ovvero sia per messaggio mandato, e queste differenze si ripercuotono. Per esempio uno come De Magistris ha per esempio 44 follower per ogni tweet, quindi è un numero abbastanza importante. Io ho analizzato i tweet dell'ultimo mese e qua si vede la differenza nel modo di gestire il mezzo. La cosa interessante è che c'è una disparità di attività tra Alemanno, Pisapia e De Magistris da una parte, e gli altri sindaci, ovvero Fassino, Orlando e Marco Doria, che nel periodo da settembre adesso non hanno praticamente usato Twitter. Orlando e Doria che, se ben ricordo, durante la campagna elettorale lo usavano un po' di più, quindi si sono addormentati. Nota di demerito, insomma, l'hanno usato per fare campagna elettorale e poi hanno smesso. Chi dialoga molto con i cittadini è Pisapia. Assolutamente Pisapia. Pisapia risponde quelle che io chiamo conversazioni dirette, ovvero sì, ci sono sostanzialmente più della metà, quasi 55% di conversazioni che iniziano con un at, con la chiocciola, ovvero sia Pisapia o il suo staff risponde a qualche utente, a qualche interlocutore su Twitter. E questo l'abbiamo ben raccontato quando abbiamo raccontato dell'incidente alla metropolitana di Milano, dove il comportamento probabilmente dello staff di Pisapia, lui stesso lo dichiara nella sua biografia, insomma nella sua breve bio su Twitter, che è là grazie allo staff, si è comportato bene, ha dato anche risposte dirette ai cittadini. Vediamo qualcos'altro, andiamo un po' più a fondo, Riccardo. Un dato interessante è per esempio quello sulle ritwittate, cioè quanto il singolo sindaco rimandi messaggi altrui. In questo caso Alemanno lo fa in una maniera molto molto forte, praticamente il 70% dei suoi messaggi sono ritwittati. I messaggi che si sono diffusi di più di questi sindaci? La cosa interessante è che è facile raccogliere tanti dati da Twitter, e ci sono tre messaggi, io sono andato a vedere le retweetate per messaggio mandato dal sindaco. In questo caso il messaggio più retweetato di Alemanno è quello a proposito della polemica sul gesto di saluto fascista fatto dal figlio. Questo ha avuto 36 retweetate, ma inconfrontabile sinceramente invece con una cosa di servizio mandata da Pisapia su spazi abbandonati a Milano, che vengono dati gratis in comodato associazioni con canoni ribassati, che ha avuto 180 retweetate. Quindi sostanzialmente cose operative funzionano. Evidentemente, ma non solo quelle a guardare De Magistris. Funzionano anche le cose che potremmo definire narrativo oniriche, perché il tweet più retweetato di De Magistris è uno in cui viene citato Lucio Dalla, che dice: io non posso fare a meno, almeno due o tre volte al giorno, di sognare di essere a Napoli. Quindi questa dimensione della narrazione anche onirica non manca senz'altro di De Magistris. Evidentemente funziona. Veniamo adesso, Riccardo, sulle parole utilizzate. Alemanno, poiché ritwitta, si mostra come uno che continua a citare il suo nome, nel senso che capita che qualcuno gli mandi un messaggio e lui lo spande verso altri. Quindi la parola più utilizzata è Alemanno TV, che esattamente è Alemanno Twitter. Parla di Roma, ci sono molti attori politici. Alemanno si mette a chiacchierare, cosa che è anche interessante, con esponenti politici. Quindi compare per esempio il nome di Storace, compare il nome, compare chiaramente l'annunziata per la polemica, compare Gasparri, compare la Meloni. Quindi parla, c'è un dialogo pubblico che fa però a livello di politici. Più politico che sulla città, diversamente Pisapia. La differenza si vede perché invece Pisapia usa molte più parole riguardanti le città, la città, non mancano in alemanno, ma c'è una differenza sostanziale, le parole utilizzate, a parte grazie, una delle prime parole che, la prima parola usata da Pisapia è ciao, quindi si rivolge a chi risponde, a quelli a cui risponde, grazie, via, comune, vigili. Poi c'è la questione dell'incidente nella metropolitana, quindi incidente capita spesso, informazioni, open, bando, tutte cose abbastanza concrete, circolazione. De Magistris? De Magistris è abbastanza concreto al pari o similmente a Pisapia. E anche se non mancano appunto questioni, diciamo come orientamento, chiaramente compare Napoli perché la città, abbiamo, c'è questa dimensione del fare comune, stiamo, ma è abbastanza sul pezzo riguardo ai problemi della città, quindi cittadini, ciclabile, quindi questioni, pista ciclabile, sono termini che compaiono, quindi ci sono cose concrete. Grazie anche per questa settimana Riccardo Puglisi. Come avete notato nella parte sulle parole, abbiamo tenuto fuori Doria, Fassino e Orlando perché praticamente non c'è stato nemmeno un tweet nell'ultimo mese. Grazie Riccardo e buona giornata. Grazie Simone, grazie a voi. Ci sentiamo la settimana prossima. Ho deciso. Che hai deciso? Me ne vado. Vuoi scherzare? La settimana scorsa vi abbiamo fatto ascoltare un po' di politici che i social network li usano abitualmente. Potete ritrovare le interviste sul nostro sito. Questa settimana ne sentiamo uno che i social network ha deciso di abbandonarli. È una perdita, per come la vedo io, perché lascia lo spazio di discussione una persona stimabile, aperta al confronto e competente, ma tant'è. Abbiamo chiesto a Giuliano Cazzola del PDL perché ha lasciato Twitter. Ma guardi, io innanzitutto capisco che sono importanti, che è un modo moderno di comunicare, però io, dopo essermi appassionato per un certo periodo di tempo, ho fatto questi riscontri e ho tratto anche le conclusioni di uscire. Il primo è che perdevo troppo tempo, perché era diventata un po' una dipendenza, nel senso che la mattina nei momenti morti io stavo sempre su Twitter e questo mi faceva magari distrarre da altre cose che devo fare, che è più utile che faccia. Poi in realtà mi sono accorto, per esempio, che è un modo questo per parlare, per entrare in un circuito in cui si parla anche con chi in realtà non si vuole, si comunica con chi in realtà non si ha nulla da dire e non si ha voglia di comunicare. E infine ho trovato troppi interlocutori spiacevoli. Secondo me questi sono un po' un ricettacolo dell'antipolitica, nel senso che ti trovi interlocutori che la prima cosa che fanno ti insultano, senza sapere neanche cosa hai fatto, ti insultano pregiudizialmente e questa è una cosa che io non sopporto e che mi porterà come scelta individuale a uscire dalla politica, però insomma non vedo perché devo farmi del male da solo. A guardarla da lontano, diciamo, quindi con una visione dall'alto di una persona che non è più dentro, un giudizio generale su questi sistemi di comunicazione e sulla loro utilità per la politica e per chi si occupa di politica. Ma come dicevo all'inizio, sono sicuramente sistemi moderni e nuovi. Per esempio la questione degli esodati, no? Questa cosa di cui si parla tanto, nasce molto sul web, nasce molto su Twitter, su Facebook, su questo, cioè c'è molto un modo di comunicare attraverso internet che in qualche modo ha preso la mano anche alle stesse organizzazioni sindacali, al modo in cui comunicano le organizzazioni sindacali. Ci sono partiti, formazioni, no, che diciamo si sono diffusi nel paese, pensiamo al caso del Movimento 5 Stelle attraverso questa forma. Però ecco, io la vedo come indubbiamente una forma importante, molto diffusiva per far viaggiare delle idee, per trovare anche dei collegamenti, però insomma che non appartiene al mio mondo. Ultima domanda, invece più prettamente politica, come mai questa decisione di non ricandidarsi o di non accettare in caso di offerta una ricandidatura? Ma guardi, ci sono motivi, diciamo, chiamiamoli nobili, tra virgolette, meno nobili. Quelli meno nobili sono il fatto che probabilmente, visto che ci sarà da sgomitare per essere ricandidati, probabilmente è più signorile farsi da parte da soli, no? dipenderà molto anche per esempio dai meccanismi elettorali, dalle leggi elettorali. Io per esempio non sarei mai capace di competere in una, con una legge elettorale in cui ci sono le preferenze, perché io non ho mai coltivato clientele di nessun tipo e non sono assolutamente disposto a spendere delle fortune per fare una campagna elettorale, no? E in secondo luogo perché ho una certa età, insomma, credo che io ho 71 anni, ho fatto una vita molto intensa, credo che a un certo punto possa risposare. In terzo luogo perché io non sopporto questo clima di antipolitica dove si viene accomunati tutti a fiorito. Io secondo le classifiche discutibili che si fanno dei parlamentari vengo qualificato come il numero 18 della Camera sui 630 deputati e il più produttivo in assoluto della mia regione. Ho una storia ricca di cose, di esperienze, e veramente essere accomunato a fiorito non mi va giù. Vedo peraltro che secondo me noi andiamo verso una catastrofe da cui non si capisce come usciremo, no? Nel senso che tra un po' il sistema politico crollerà tutto. Siamo secondo me a un nuovo clima degli anni 90, e quando poi negli anni 90 tutto sommato c'era un'alternativa, c'era l'alternativa delle forze che non avevano mai governato a partire dal PC. Oggi secondo me questa alternativa non c'è e sinceramente io non ho nessun motivo, nessuna tensione per fare parte del mondo che verrà, insomma non è il mio mondo quello che si sta aprendo davanti ai nostri occhi. La satira politica è morta, si disse qualche tempo fa, e invece no, è viva e vegeta, sulla rete si alimenta molto, ma c'è qualcosa di più, c'è una sorta di satira diffusa o di battutismo. Abbiamo interpellato un po' di persone che se ne intendono. Stefano Andreoli, Spinosa.it. La satira ha trovato, come molte passioni che magari si stavano un po' impolverando dovuto all'assenza di ricambio, ha trovato nel web una linfa nuova. Noi di Spinosa abbiamo cominciato, forse siamo stati tra i primi a diffondere questa viralità della satira con le battute sull'attualità, e continuiamo da parecchi anni, ma sicuramente la satira è un bel il web è un bel serbatoio per la satira, senz'altro. Tra l'altro avete inaugurato da poco un nuovo, vogliamo chiamarlo servizio, Stefano, lo vogliamo chiamare Live Spinosa su Twitter, sì, per commentare in diretta le trasmissioni di attualità. Sì, il cosiddetto live è una cosa che ci riesce abbastanza bene, diciamo, non per vantarci, ma fare battute in tempo reale durante una trasmissione, un talk show politico, ma non necessariamente, è una cosa che facciamo da anni. Abbiamo aperto un account Twitter che si chiama appunto Live Spinosa, dove seguiamo le trasmissioni più popolari, abbiamo cominciato con Ballarò e penso ne seguiranno altre. Ecco, questo Live Spinosa si sovrappone, se così vogliamo, e concedicelo, a quello che normalmente avviene su Twitter quando ci sono delle trasmissioni televisive di questo tipo, quando si commentano fatti di attualità. Cioè esiste una sorta di satira diffusa e in tempo reale che già avviene sui social network. Tu di questa cosa qua che cosa ne pensi? Beh, da una parte è una cosa positiva, perché anche l'ultimo arrivato può fare una battuta e se è bella vederla letta e apprezzata e ritwittata da migliaia di persone, quindi in questo senso è un ottimo mezzo per favorire appunto questo tipo di comunicazione ironica, da battutismo, diciamo così. Quello, il rovescio della medaglia, è che molte volte queste battute possono non essere belle, può diventare una moda inflazionata, adesso fare battute quasi è, in un certo senso si può dire che abbia stufato, perché oramai tutti le fanno e forse sarebbe il caso di cercare altre strade. Alberto Facchini, su Twitter, Microsatira. Tramite i social network, secondo me, si è trovato un nuovo strumento di diffusione della satira, un sistema che va oltre i metodi convenzionali e i canali di comunicazione convenzionali. E tramite i social network molte persone, anche dei perfetti sconosciuti o chi scrive semplicemente per hobby, quale anche io alla fin fine, ha potuto trovare una via di espressione innanzitutto libera e accessibile a un pubblico molto vasto, una platea molto vasta. Tu mi sembra di capire che sei stato tra i precursori di questo... Sì, io ho creato Microsatira proprio in funzione di Twitter, da cui anche il micro presente nel nome, e la creai a inizio del 2010, quindi ormai quasi 3 anni fa. E all'epoca in effetti persone che scrivevano di satira in Twitter, che io ricordi, mi pare che non esistessero, o forse ne esistevano uno o due, non di più. Allora, ci sono persone che scrivono, che fanno espressamente satira, e ci sono persone invece che si gettano in quello che potremmo chiamare una sorta di battutismo, e sono quasi tutti gli utenti di Twitter in realtà. Secondo te questo è un bene o ha delle controindicazioni? Devo dire, questo fenomeno secondo me è esploso soprattutto quest'anno. Ci sono in molti che scrivono più che satira, forse una sorta di umorismo. Non saprei dire se questo sia un bene o un male, perché forse Twitter si è troppo riempito di questo genere di argomenti, a scapito forse del carattere più informativo che aveva in precedenza Twitter. E devo dire che poi forse in molti cercano di avere una loro visibilità, di apparire tramite Twitter, e questo forse non è un fenomeno molto positivo a mio avviso. C'è un eccesso di desiderio di voler apparire. Abbiamo sentito queste due opinioni, dunque adesso abbiamo deciso di convocare, per così dire, una veterana della satira. La trovate anche su Twitter, Lia Celi, la trovate su Lettera 43 e la trovavate su Cuore, che era giornale storico della satira italiana. Per chi non lo conoscesse, andatevi a pescare qualcosa su internet, naturalmente lo trovate sempre. Lia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per il ricordo del mio vecchio giornale di cui sono stata prima lettrice e poi redattrice, che è una cosa tipo Cenerentola, però certe favole nella satira possono anche avverarsi. Allora Lia, che ti pare di tutto questo? Che ti pare di questa sorta di satira diffusa, di questo battutismo diffuso? Guarda, io devo ammettere che sono stata incoerente, perché sono partita con una certa diffidenza rispetto a questa parcellizzazione della satira e l'invasione delle battute, insomma, forse era anche un pizzichino di invidia per il successo che stava conoscendo Spinoza già 2 anni fa. Poi ho letto le loro battute e ho veramente ammirato la loro bravura, perché la selezione ci presenta una serie di risultati di battute veramente eccellenti. Hanno creato proprio una maniera, uno stile. Dopodiché legge, ho detto no, adesso ci voglio provare anch'io. La battuta non mi è estranea, però non mi piaceva questa satira puntiforme che mi sembrava fine a se stessa, perché a Cuore la battuta era sempre usata come titolo all'interno di un articolo, di un contesto, di un messaggio un pochino più a larga gittata, per dire. Però il meccanismo retorico della battuta e il piacere di produrla è talmente contagioso che anch'io alla fine mi sono lasciata travolgere, e naturalmente Twitter era così il palco perfetto per questo tipo di cose. E poi io comunque ho sempre la scusa che, essendo una scrittrice di satira, scrivere battute per me è proprio come un brain training, una ginnastica necessaria per tenere sempre allenati i meccanismi che poi io ho la fortuna di poter usare anche in contesti di più largo respiro. Posso scrivere articoli anche più lunghi, ecco, ho questa possibilità di usare la satira anche così, insomma, un po' più, oltre i 140 caratteri. Forse questo è ciò di cui si sente la mancanza. I giovani si dedicano invece soprattutto alla battuta e non mi sembra che ce ne siano molti in grado di scrivere un articolo satirico, insomma, in cui riesce a fare un discorso satirico più lungo della battuta. Forse inevitabilmente è così, perché anche lo spirito dei tempi. Senti Lia, ma mi sembra che le persone che abbiamo interpellato fossero abbastanza dubbiose, perplesse su questa diffusione così ampia del battutismo, dell'umorismo, insomma, chiamiamolo come vogliamo, a chiunque sostanzialmente, no? L'accessibilità a chiunque. Tu come la vedi? Guarda, un po' mi sorprende che lo dicano due colonne proprio della satira abbattuta in rete, perché è la prova del loro successo, proprio per il fatto che sono bravi e sono stati premiati, insomma, dal pubblico. Chiaramente hanno dato un esempio, hanno tracciato una strada che adesso molti vogliono imboccare. Del resto, proprio il loro successo prova anche che Twitter è uno dei pochi agoni, per dire, veramente meritocratici in Italia, uno dei pochi scenari in cui un battutista dilettante completamente sconosciuto può duellare ad armi pari con i grandi e eventualmente anche soppiantarli, perché Alberto Facchini, insomma, Microsatira, ha inventato lui un genere, non era nessuno e si è conquistato la sua fama su Twitter grazie alla sua bravura, e chiaramente ci sono molti ragazzi che vogliono tentare la fortuna allo stesso modo, perché in Italia non abbiamo nessun'altra situazione in cui sia possibile cimentarsi con i grandi alla pari, senza raccomandazioni, senza sponsorizzazioni. Poi dal punto di vista, se parliamo così, dell'inflazione e della saturazione di battute, io sono molto liberista, lo so che è una brutta parola in questo momento, però io ci credo nel fatto che la roba buona, il materiale buono, il battutista buono emerge sempre, e chi non ci sta, chi si stufa, chi produce roba scarsa viene messo da parte, perché poi Twitter certo ti dà la possibilità di metterti in vista, ma ti dà anche la possibilità di essere svillaneggiato e svergognato dal pubblico, che ti può prendere a pesciate senza tanti complimenti, che tu sia famoso o no. Grazie a Lia Celi per essere stata con noi. Vi ricordo ancora una volta, la trovate su Twitter, Lia Celi, e la potete leggere anche su Lettera 43 e non solo. Lia, buona giornata. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Voto Antonio. Vi ricordo ancora una volta i contatti ai quali potete trovarci: su Twitter è VotaAntonioR24, la mail votaantonio@radio24.it, su Facebook VotaAntonioR24, trovate anche me su Twitter, sono Simone Spetia. E poi, se volete, se siete riusciti ad ascoltare anche solamente un pezzo della trasmissione e vorrete riascoltarla tutta, c'è ovviamente il podcast. Un ringraziamento a Valeria Bernardi per la parte tecnica, un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre da Simone Spezia, e buona giornata.